Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e bentrovati. Oggi 17 dicembre, manca poco al Natale, manca poco alla fine dell'anno. I Maya direbbero che manca pochissimo alla fine del mondo. Ma questo, diciamocelo chiaramente, non ci preoccupa e non ci spaventa. Ma è proprio in questo periodo dell'anno che spesso siamo portati a rivedere come in un flashback, in una specie di film riavvolto in modo così minuzioso tutto quello che è stato, chi siamo diventati alla luce di ciò che è successo. Sei così altrove che non riesci neanche più a tornare, ma non ti importa perché è troppo bello da restare nei luoghi e il tempo in cui hai trovato ali, sogni e cuore. A me è successo e ora so viaggiare oltre questa stupida rabbia. Ti è mai successo? È un inedito di un gruppo incredibile, i Negro Amaro, che oggi è qui con me per accompagnarci in un viaggio, in un bilancio direi di vita e di carriera molto molto speciale. Saluto subito Giuliano San Giorgi. Buongiorno, buongiorno. Voce dei Negro Amaro, e insieme a lui ci ha raggiunto anche Emanuele Lele. Ciao a tutti, buongiorno. Spedicato, il chitarrista del gruppo. Oggi sono con noi perché abbiamo un bel po' di cose di cui vogliamo parlare insieme, proprio a partire da un doppio CD appena pubblicato che racconta la loro storia musicale, ma che contiene anche 6 inediti più alcune rarità. Un lavoro voluminoso, intenso, ricco, complesso, eppure da voi intitolato Una storia semplice. Davvero questo titolo rispecchia tutto quello che siete e che siete diventati, il titolo della vostra collezione? Ma credo che sia semplice, lo dico spesso, il risultato, anche il risultato di un'amicizia come la nostra, però dietro la semplicità c'è sempre una grande complessità, nel senso ci sono tantissime esperienze, tantissime vite diverse, almeno le nostre 6 sono così differenti nei gusti, nei modi di viverle anche. Però il risultato è veramente semplice, nel senso che quando a parlare è la musica fra di noi c'è tutto, è tutto molto più semplice e aiuta tanto. Lele, la musica rende tutto molto più semplice? Sì, perché è un linguaggio che non ha bisogno di risposte o di artifici intorno, insomma. Per noi è un mezzo di comunicazione che nel momento in cui con le parole non riusciamo ad arrivare ad un obiettivo, lo facciamo con la musica, ed è quello che in qualche modo ci lega per andare avanti, per vivere le giornate, insomma, nel modo più sereno possibile. Come sempre a fianco dei nostri ospiti musicali c'è anche Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta, che ci aiuterà, partendo proprio dal progetto musicale dei Negro Amaro, a fare qualche approfondimento che entri anche nella nostra vita e, come spesso dice Alberto, nel nostro percorso, un termine che viene molto usato dagli psicoterapeuti. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, ciao i Negro Amaro, proprio una bella puntata secondo sì. me quella di poi oggi. Poi con un doppio CD è davvero tanto materiale. Sì, lo vediamo anche noi in diretta, come se non ci fossimo visti fino ad ora. Devo dire che l'idea di questo, di riscrivere il proprio percorso musicale con qualche pezzo nuovo e poi con tutta la storia invece musicale del gruppo e della loro carriera, è proprio come aprire un album di fotografie. Tu riguardi il tempo sì. che è stato e lo guardi alla luce di quello che sei diventato. E poi abbiamo trovato dentro al CD proprio una breve descrizione di quello che loro hanno fatto per costruire questa antologia, che direi vale proprio la pena di far ascoltare a tutti. Negli spazi vuoti di questa tracklist c'è il tempo di mezzo, quello tra una canzone e un'altra, in cui è tutta la vita a passarci attraverso. La nostra è quella di ognuno che abbia condiviso con noi il tempo, lo spazio, la musica, il sogno. Ascoltando ad occhi chiusi, si appiccica addosso l'emozione del ricordo, si incontra nella bocca il sorriso del piacere, si aggrappano alle guance e agli occhi le lacrime di un tempo che vorresti non finire mai. E mai finirà, sembrano raccontarci le canzoni. Sono segni indelebili, marchiati a fuoco sul cuore di ognuno che le abbia sentite e vissute. E siamo in tanti ad averlo fatto. Ah, Alberto, quali parole ti sembrano davvero importanti, significative nella logica della costruzione di un bilancio? Ma io direi che intanto l'emozione del ricordo, cioè entrare dentro una fotografia e provare a risentire esattamente quello che abbiamo sentito in quel momento. E poi questa frase finale, no? Il fatto che ciascuno certe cose le sente e le vive. E quindi direi, possiamo proprio, prendendo un bilancio tra le mani, sì, riandare in alcuni istanti, in alcuni momenti, domandarci qual è il momento di quest'anno, di questo decennio, oppure del mio percorso di vita, dove davvero ho sentito tanto e in quel passaggio ho vissuto molto. Due buone domande per entrare dentro alla sfida che lanciamo oggi agli ascoltatori. Vai, Alberto. Allora, la sfida è questa: provate a dirci qual è la voce magari più in attivo, quella che è andata meglio, oppure quella più in passivo, quella dove avete fatto più fatica. Siamo alla fine dell'anno, potreste tenere come riferimento proprio gli ultimi 12 mesi della vostra vita, in che cosa siete andati davvero forte, ma non solo nel successo, nell'obiettivo immediato, ma proprio dentro al vostro percorso di vita, dove quest'anno avete generato un momento di reale costruzione e dove invece al contrario magari avete fallito e quindi potete costruire un progetto di ricostruzione per l'anno a venire. Abbiamo una sfida che ci impegna, ma due cd dei Negramaro, per l'emozione mi si era impaperata la lingua. Succede spesso, per voi, e quindi chiamateci 800 24 0024. I Negramaro vi diranno e sceglieranno esattamente qual è il bilancio, perché io aggiungerei anche una strategia, cioè come fare a riportare in bilancio magari un bilancio che zoppica un po'. Magari se non ce la raccontano loro, li aiutiamo noi, proviamo a trovarne una insieme. Allora, è per tuffarci nel mondo aiutate dei Negramaro. Voi aiutate, potete. Noi. Beh, aiutate io, noi. Io ti devo dire che faccio già fatica ad aiutare me stessa, ma posso provarci. Ma Alberto sì, Alberto, che è un vero aiuterai. Psicoterapeuta che riesce a motivare e soprattutto a farti riflettere. Questa è una buona cosa, da avere la piacevole consapevolezza che... Ma sai, secondo me quando conosci un po' come funziona la nostra mente, sembra tutto così complicato, ma poi proprio tenere insieme quello che ci succede con quello che sentiamo, cioè le emozioni, e con i significati che adesso riusciamo ad attribuire. Certo che è un regalone fare il bilancio di fine anno con loro. Allora, per tuffarci nel mondo dei Negramaro, invitarvi anche a pensare alla vostra vita, al vostro ultimo anno, come se fosse, io direi, un film. Tu diresti una musica. Sì, una canzone. Lele? Ma io direi un film. Anche tu vedi Lele, sì, come un film, Alberto? Ma io dico che il film come un album romanzo, di fotografie, un esatto. Album di fotografia, andiamo, un nuovo stimolo musicale. Tutto scorre, usami, straziami. Mentre tutto scorre, a proposito di immagini di cui parlavi tu, Alberto, per voi potrebbe essere la fotografia questa della consacrazione, non quella dell'inizio perché avevate già molto lavoro alle spalle, eppure quella canzone è diventata una cartolina che ha tracciato in modo incredibile il prima e il dopo del vostro percorso, perché è proprio con questa canzone che i Negramaro sono diventati un fenomeno di massa, siete un gruppo. Io ho ricevuto non sapete dire quante mail, ma ce le avete davvero. Allora, a rivedervi oggi però lì sul palco di Sanremo, bocciati dalle giurie popolari ma vincitori per la critica e poi nelle scelte, nelle preferenze del grande pubblico, che emozioni provate? Più orgoglio, più tenerezza? Cosa avete imparato da quell'esordio così incredibile? Io ho imparato che c'è una verità, che è quella del pubblico, che non è così scontato e banale o populista quello che sto per dire, però credo che non ci sia un grande segreto dietro ai Negramaro, non ci sia come dire una grande un progetto a tavolino dietro ai Negramaro, c'è proprio una verità da parte nostra, e dall'altro lato è successo un rapporto di verità con le persone che hanno semplicemente sentito la stessa nostra identica emozione nel ricevere quell'emozione, quella canzone stessa. Per cui credo che questo rapporto sia stato come dire, così intenso e profondo da non essere per nulla legato agli eventi. Cioè, in realtà la verità vera, verissima, sì. Scusate il gioco di parole, ma è necessario, è proprio la canzone che ci ha uniti, ha legato noi al pubblico e viceversa, quindi non ci sono artifici. E il fatto che si tratti con una materia così poco concreta, ma molto profonda e intensa come la canzone, questa cosa fra noi e chi ci ha seguiti credo sia una magia incredibile che non saprei spiegare con parole in realtà, ma so per certo di aver imparato questo, che esiste una verità ed è basata su una cosa che non ha proprio confine, che è l'emozione di una canzone. E questo, Leila, è vero, è vero per la musica, è vero sul palco, è vero per Sanremo, ma è un po' vero anche nelle storie di tutti i giorni. Sì, io ho un ricordo del festival, cioè quello che mi è rimasto dopo quell'esperienza, che comunque è stata un'esperienza un po' travagliata ma magnifica per noi. Mi è rimasto dentro, cioè, il desiderio della musica, ma non nel viverla, come diceva Giuliano, nella sua verità e non nella competizione musicale. Quindi mettersi sempre a confronto con se stessi per stare alla ricerca di trovare nuovi spazi, andare oltre, insomma, a ricercare, a scoprire nuovi orizzonti con la musica e nella vita quotidiana di ogni giorno. Perché, Alberto, in ogni bilancio sapersi rivedere bene nel proprio momento di partenza è sempre fondamentale, anche nel lavoro che tu fai come psicoterapeuta. Ricordiamo, a proposito di bilancio, la sfida, che è un invito di oggi, di fare un po' il punto della situazione, ripensate al vostro anno, a questi ultimi 11 mesi e mezzo, e provate a raccontarci qual è la voce in attivo e in passivo, magari provando anche a così ipotizzare una strategia per far tornare in attivo quella in passivo. 800 24 00 24, ci aspettano due CD dei Negramaro per voi. Alberto? Ma penso che poi quello che dicevano Giuliano e Leila, cioè quando loro hanno avuto successo avevano già molta chiarezza rispetto a chi erano, non avevano bisogno di diventare qualcos'altro. E credo che dopo 10 anni di carriera, per noi per esempio, è proprio anche significativo. Parli con loro e hai proprio la percezione chiara che sono rimasti quello che erano e non sono diventati qualcos'altro. Credo che, tra l'altro, per un artista che fa un botto clamoroso come loro, il rischio è proprio che tu non diventi chi sei, ma sei quello che ti fanno diventare, che è una cosa che probabilmente loro non... Mi posso permettere, quella fortuna di cui parli tu sta proprio nell'amicizia, nel senso, il fatto di essere stati 6 amici che hanno cominciato insieme, questo è la forza, cioè... magari se quel botto di cui parli tu mi fosse successo personalmente da solo avrei forse reagito in malo modo a quel botto lì, perché è chiaro che bisogna stare attenti a quel tipo di onda d'urto, però insieme l'abbiamo gestita come se fossimo come se avessimo una corazza, ed è stato questo. In realtà bisogna essere corazzati, ma l'amicizia lo è senza grande pensiero. Senti, ci racconti un po', ciascun amico in un gruppo svolge un ruolo, ha delle caratteristiche particolari, c'è quello che, non so, cerca di tenere più unite, l'altro che è più riflessivo, quello un pochino più piantagrane. Ci racconti, Negramaro, proprio ciascuno di voi un po' come gioca nell'amicizia, che ruolo ha, qual è la sua caratteristica? Naturalmente poi si cambia, le situazioni ci modificano, ma ciascuno di voi, tu ad esempio? Io credo che ognuno di noi, penso che Elena mi dia pure ragione, perché ognuno di noi sia tutto il contrario di tutto, sì. Cioè, nel senso che c'è un'energia che ruota, per cui c'è uno che fa, diciamo, la pace, fa fare la pace agli altri, e l'altro sarà quello che lo farà in seguito, oppure l'altro impazzisce e lo farà a ruota chiunque altro, quindi è come se non avessimo un carattere chiuso nei confronti degli altri 5, ognuno di noi, cioè... c'è proprio la voglia così di stare insieme e fare musica, soprattutto, ma vivere insieme il quotidiano, ci porta poi ad avere dei caratteri plasmabili, cioè... solari come anche come... solari e anche no, non è si è sempre sole, anzi siamo molto luna, devo dire. Lele, tu sei più solo e più luna? Beh, io sono in questo periodo molto luna, però il sole è qualcosa che naturalmente anche da dove siamo nati, da dove proveniamo, insomma, è qualcosa che ce l'hai dentro e te lo porti ovunque, anche di sera se vuoi fai uscire il sole, insomma, perché ce l'hai dentro e la luna si trasforma in sole e viceversa, insomma, questo mix, questo cambio ci permette di vivere le emozioni in maniera molto naturale, insomma, come è giusto che sia per noi. Infatti anche sulla copertina, insomma, questo viene un po' descritto come ognuno di noi ha un colore ben preciso che, come diceva Giuliano prima, è quello che unisce poi un po' tutti, no? Nella nostra diversità l'obiettivo unico è quello della musica, quindi è un modo per completarsi, diciamo così, uno con l'altro. Credo che... Comunque, scusate, volevo legarmi un attimo a Lele. In realtà noi non lo vediamo tanto il sole, viviamo troppo la notte, quindi il fatto di portarselo dentro, perché altrimenti non lo vedremmo proprio. Guarda, lo portate. Ma penso che sulle loro riflessioni noi possiamo anche tirare fuori qualche indicazione più generale, cioè il fatto che Giuliano dice: mi sono sentito protetto, poi proprio perché non ero da solo ma eravamo in sei. Questo un po' sottolinea l'importanza in tutti i passaggi, quelli critici ma anche quelli di grande fortuna, di avere vicino a te le persone giuste, che sono in realtà le relazioni protettive, quelle che ti fanno sentire sempre dentro te stesso, che ti trovi sempre comunque anche quando sei come fare un viaggio con la famiglia nel mondo, cioè comunque è come portarsi la casa. Senti, in questo giro è bellissimo. Infatti io vorrei aggiungere che secondo me è stata l'amicizia a creare la musica, non la musica a creare l'amicizia, cioè non è l'amicizia che è venuta dopo la musica, dopo aver vissuto delle esperienze di notorietà e quindi siamo diventati amici. C'è stata prima l'amicizia che ha fatto sì che creasse un mondo artistico musicale nostro. E c'è, direi, una dimostrazione scientifica di quello che stanno dicendo, perché loro sono un gruppo fatto da 6 persone insieme da 10 anni. È difficilissimo trovare nella storia della musica un gruppo fatto da così tanti componenti che sono rimasti sempre sì, quelli dal primo giorno, perché succede sempre qualcosa che poi fa cambiare in percorso, in tragitto, magari la composizione per problemi relazionali. E in questo direi che loro segnano proprio un record specifico nella storia della musica italiana. Siamo felici di questo. No, ma hanno portato il sole anche negli studi di Radio 24, è proprio perché con i Negramaro abbiamo appena evocato una terra bellissima che io amo in modo particolare, una terra piena di sole, qual è quella dove loro sono nati, dove è partito proprio la loro amicizia e il loro progetto musicale. Lei le dico giusto? Noi certo. Di questa terra vi regaliamo un raggio di sole, ma naturalmente in musica. È proprio oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro e non c'è macchia gialla neanche immaginare, ma se guardo in basso e vedo te in un istante, poi capisco che è finito dentro te proprio quel sole. E adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa, come ho perso il sole. E se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce, ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare. Era un breve estratto di Sole, uno dei 6 inediti di Una storia semplice, l'album antologia dei Negramaro, che oggi ci danno la possibilità di fare un bilancio. Lo facciamo non solo dei loro 10 anni di musica, ma seguendo loro noi facciamo un bilancio anche della nostra vita. Lo sappiamo, ci tocca alla fine dell'anno, che lo vogliamo o no, una riflessione su come è andato, su che le occasioni che abbiamo avute, quelle che abbiamo sfruttato, abbiamo perso, sulla fortuna che vorremmo giocarci nel prossimo anno. Lo facciamo tutti, allora oggi una così riflessione a voce alta insieme ai Negramaro, un bilancio, le voci positive e le voci negative. Stanno già arrivando i vostri messaggi, naturalmente da Alberto Pellai e anche dai nostri amici. Ci faremo suggerire delle strategie. 800 24 00 24, chissà mai. Di amarci noi non ne saremmo mai stati capaci, allora tu tu spiegami dei nostri baci il senso, e se un senso lo trovi dimmi almeno. Sei è un altro inedito dell'album, Alberto. Noi anche ascoltando inediti possiamo fare questo percorso anche nella nostra vita. Ma secondo me è molto bello che in questo CD questa canzone è allo stesso tempo un numero magico per loro, è il numero della loro identità. Sono in sei, allo stesso tempo è proprio un verbo, è un modo di raccontare chi si è, un modo di giocare intorno alla propria identità e al proprio progetto. Ero molto incuriosito, faccio io una domanda, che perché effettivamente Giuliano, poi di voi, è proprio questa voce incredibile che immediatamente rende riconoscibile tutto il progetto del gruppo, è spesso anche il più citato del gruppo, e quindi chiediamo a Lele se questa sorta di leadership che tutti attribuiscono a lui a voi sembra protettiva, oppure se è una di quelle cose che a volte dice: ma come, c'è lui ma ci siamo anche tutti noi. No, anzi, per noi è molto protettiva e noi lo siamo per lui, a quanto dichiara lui, insomma, nei nostri confronti. Quindi è un modo per proteggersi a vicenda, è stato deciso dalla natura stessa, insomma, di questo progetto. Avere un leader, e chi meglio di Giuliano, insomma, nella scrittura dei brani e nell'espressione dei brani stessi, insomma. Inizialmente noi stavamo cercando un cantante. Dai, stavamo cercando un frontman con la fronte alta, con fronte di me. Cioè, io è una parola che odio, per esempio, leader proprio, frontman, ma anche soprattutto leader è una parola che odio. Qual è una parola che ti riconosci? Uno di loro, uno dei sei, l'amico di lei. Ma il portavoce di queste magnifiche emozioni, insomma. Cioè, io credo che nel momento in cui... E, come dicevo prima, stavamo cercando un cantante, insomma, non ci abbiamo messo molto a capire nel momento in cui Giuliano si metteva ad esprimersi anche con la voce, perché è un ottimo chitarrista, nonostante è anche un bravissimo cantante. E abbiamo, grazie Lele, ma oddio, non è troppo, 50 euro, 50 euro. Quindi è andato tutto naturalmente, non c'è nessun tipo di pressione nei confronti, insomma, di un leader o di una band, insomma, come diceva Giuliano, è un'energia fatta di sei persone, insomma, che è nata e cresce, insomma, come la natura ha voluto. Diamo voce ai nostri ascoltatori che stanno chiamando all'800240024. Parliamo naturalmente di bilanci positivi e negativi. Donatella ci chiama da Reggio Emilia. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno e buongiorno Ine Grammaro, buongiorno agli ascoltatori. No, il bilancio mio potrebbe sembrare per lo più negativo, in realtà lo vedo come un bilancio positivo, nel senso che sono un imprenditore da 30 anni, con le difficoltà che abbiamo avuto negli ultimi anni, prima ho messo in ipoteca la casa per tenere in piedi l'azienda, questo non è stato sufficiente, ma lo spirito imprenditoriale, l'energia che mi muove a continuare, perseguire quello che è il mio obiettivo, quindi il lavoro, ho venduto la casa. Ho venduto la casa, che prima casa fatta con tanti sacrifici, però quello che per me è positivo, la casa lo vedo come uno strumento per potermi realizzare e dire ok, andiamo avanti, partiamo da zero, perché ovviamente si parte da zero, quindi troverò un affitto, troverò qualcosa, ma ho salvaguardato quello che io ritengo oggi la dignità personale, la dignità di salvaguardare i miei clienti, i miei fornitori, le persone, i miei collaboratori e tutto quanto. Quindi grande coraggio e determinazione nell'andare avanti, nel ricominciare da zero, come diceva Donatella. Alberto, sì, credo, grazie che Donatella. Donatella ci racconta davvero una storia forte, ma è la testimonianza anche vivente di un concetto che in psicologia è di cruciale importanza, si chiama resilienza, ed è quella capacità di ritornare alla propria forma originale nonostante ci siano forze avverse che tendono magari a modificare la tua struttura. Direi che Donatella ha veramente una struttura fortissima. Tra l'altro lei vive a Reggio Emilia, probabilmente ha avuto un bel po' anche di problemi legati al terremoto, e Negramaro hanno costruito insieme a molti altri artisti italiani un momento unico nella storia della musica, con Italia Loves Emilia, concerto incredibile, un momento unico, irripetibile. Tra l'altro un momento che uno pensa tra gli artisti c'è molta competizione, invece lì una collaborazione incredibile, e per noi che guardavamo passava molto di più forse proprio questo spirito di grandissima fratellanza, arrivava addirittura prima della musica. Ma io credo che sia molto umano, senza aver studiato psicologia, provo a dirlo da parte mia, nel senso sia umano ritrovarsi uniti di fronte a una crisi, no? A una crisi collettiva, ad un problema di equilibrio che si perde tutti insieme. Nel momento in cui si perde un equilibrio, o si è di fronte ad una crisi totale per tutti, allora la prima cosa che ci si sente di fare è quella di unirsi tutti insieme per affrontare il pericolo. Quindi credo che non sia tanto da supereroi, come dire, l'avrebbe fatto chiunque. La nostra maniera di aiutare chiaramente è quella di usare le nostre voci, no? La nostra musica, la possibilità di riunire così tante persone tutti insieme. Poi dall'altro lato il momento è stato veramente magico, perché come dicevi tu, veramente si è sentito questa voglia di condividere fino all'ultimo istante. Si improvvisavano tantissime cose. Anna e Marco con Fiorella Mannoia l'abbiamo improvvisata qualche ora prima, lei ed io, perché volevamo rendere omaggio a Lucio Dalla, e in un momento così ti giuro che è stato per me incredibile vedere le lacrime su ragazzi giovanissimi che forse neanche conoscevano bene Lucio Dalla, no? Però quanto è forte una canzone, trasmette qualche cosa di vero e profondo. Momento era, è vero, tutto così. Abbiamo Maria che ci chiama da Bologna. Buongiorno Maria. Buongiorno. È arrivato il suo momento. Perfetto. Io sono qua, veramente Maria, mi spiace che lei non possa sedersi qua vicino a me con Giuliano, ciao, Lele, Maria. Alberto, c'è una bellissima atmosfera. Ah, mi farebbe molto piacere effettivamente essere lì. Alla prossima, quando tornano, adesso, tanto saranno a San Siro a Milano il 13 di luglio, sì. Perché io dicevo, e adesso i prossimi loro vanno negli stadioni, cioè San Siro, e poi se ne vanno a Roma all'Olimpico il 16, per cui io spero che a luglio, se si sono trovati bene, tornino. Considerati impegnata. Mi considero, mamma mia. Maria, allora impegno anche lei, racconti. Perfetto, fa parte del mio programma di vita, quello di stare sempre meglio. Bene, bene. Allora Maria, lei ha fatto un bilancino? Sì. Com'è andata? Bene. È stato un bilancio positivo, nel senso che cerco con molto impegno, ma anche con una certa tranquillità, di semplificarmi la vita tutti i modi possibili. Ho cominciato, per esempio, eliminando e selezionando molte cose inutili di cui ero circondata in casa. Un po' di repulisti, come si dice. Sì, votare. Questo anche nelle relazioni con le persone, sì. Quindi tenendo soltanto le relazioni veramente significative e lasciando perdere le relazioni poco significative. Quindi è andata un po' per sottrazione, che è una strategia, che Alberto suggerisce, che io ho imparato, devo dire che non riesco tanto a metterla in pratica. Quindi alleggerire. Guarda, questo io divento il primo iscritto al fans club di Maria, perché ci ha raccontato una verità che è cruciale, cioè identificarsi per sottrazione. Moltissime volte ci complichiamo la vita perché è tutto un aggiungere, tutto un mettere sopra, tutto uno stratificare, quando poi davvero chi sta bene nella vita, chi ha successo, è quello che ha imparato a togliere tutto. Cosa avete tolto di recente che vi ha aggiunto benessere, Giuliano? Lele? Ma io credo che questo sia stato un passo indietro, no? Il fatto di aver rivisto tutte le nostre fotografie in musica, credo che ci abbia fatto tornare proprio indietro nel tempo, e quindi abbiamo tolto il superfluo, sì, perché quando pensi al passato devi necessariamente semplificare il ricordo, semplificare quello che vuoi tenere di quei ricordi, quindi credo che già sia stato togliere tutti i ricordi che non aveva senso ricordare, insomma. Sì, allo stesso modo, insomma, cioè, la positività, insomma, di questo racconto, di questa storia semplice, e ti fa rivivere un po' come un flashback tutto quello che c'è stato negli anni, e naturalmente l'esperienza ti dà modo di vedere il futuro in una maniera più serena rispetto a quello che è stato nel passato. Vedi. Andando a ripulire naturalmente tutto Vedi. Quello che mette un po' di disagio. Vedi gli artisti, io posso dire quello che ho tolto alla macchina. Che ottima. Così, a Milano, cosa, ottima soluzione. Portami fuori stanotte, fammi girare la testa più volte, come un giullare di corte, tu lasciami ridere fino alla morte. Sveglio seduto, sono svenuto e mi sa che ho bevuto un bel po'. E tu guardami. Il titolo di questa canzone, La Giostra, ci aggiunge uno spunto per il nostro bilancio, perché tante volte nel corso della nostra vita ci sentiamo come dentro una giostra da cui vorremmo scendere, ma non abbiamo la forza di farlo o la capacità, il coraggio. Sì, direi che è proprio uno di quegli inediti che un po' tiene dentro il concetto poi di tutto il percorso. Sali su una giostra che è un po' come salire dentro alla vita. La giostra forse la puoi scegliere, la vita te la ritrovi proprio regalata e tu diventi il protagonista, ma magari Giuliano può proprio dirci come mai ha inventato l'immagine della giostra come un inedito che connota il percorso dei 10 anni. Credo che sia un momento, abbiamo anche sentito dalle telefonate prima, che sia un momento che è molto paragonabile a questo senso di vortice, no? Che la giostra può dare. Siamo su una giostra, insomma. L'importante dovrebbe essere restarci sopra indenni, insomma, credo e spero che riusciremo a restare abbastanza saldi su questa giostra che viaggia in una maniera velocissima. In realtà è comunque legato molto a dei momenti personali notturni in cui è stato abbastanza bello sentirsi girare come su una giostra. E direi che c'è un altro piccolo passaggio che vorremmo farvi ascoltare, questa volta non in musica, è tratto da un libro, Lo spacciatore di carne, un romanzo, il primo romanzo di Giuliano Sangiorgi. È un romanzo multidimensionale, ha dentro proprio tantissime cose. Giostra. È una giostra anche quella, però in un certo è proprio senso. Una giostra, abbiamo selezionato proprio un brevissimo estratto. Invidio la luna che ti addormenta, che si finge tua intima confidente, quando strappa a te speranze e sogni che non saprò mai coltivare. Invidio le stelle che ti seguono in ogni cielo, che ti vogliono cometa, di una notte la più accesa. Invidio il tempo che a te si accende e non conosce clessidra migliore per farsi distruggere. Lele, come avete reagito voi cinque all'uscita del libro di Giuliano? Beh, benissimo, anche perché noi l'abbiamo vissuto. Perché immagino. Lui scriveva il libro mentre eravamo in tour, quindi le notti insonne le abbiamo passate, insomma, con le letture in anteprima dei capitoli. Per vivere quell'emozione letteraria di Giuliano. Certo non li leggevo con questa voce. Con questa voce no, a volte sì, insomma, per la stanchezza si lasciava andare nel profondo sonno e continuava a leggere i capitoli che scriveva. No, parlavo proprio della voce. Della voce di Mario Lucarelli, sì, che proprio, è bellissima. Sì, è bellissima e ti mette... A me mi dà la sensazione comunque di un documentario, no? Per cui come se stesse parlando dell'animale. Non so come dire, è stranissima la voce. Adesso succede qualcosa che... Ecco, succede qualcosa, può succedere qualcosa, Alberto, in chiusura, prima di salutare il Negramaro e ringraziarli di essere qui e naturalmente passare i numerosissimi messaggi che sono arrivati per fare i complimenti a loro. Grazie. Possiamo regalarci come bilancio? Ma io direi che possiamo proprio mettere un po' insieme tutti i pezzetti che ci siamo raccontati oggi. Sì? Il consiglio che darei io: prendetevi 3 fotografie di questo anno e metteteli tutti insieme, scegliete una buona musica di sottofondo e noi scegliamo Ottobre Rosso, che è proprio dedicato alla musica. Tradisco i tuoi destini e poi mi seguo ad occhi chiusi, il rosso mi piace di più. Spalmato bene in viso fa sembrare un po' più vivi. È quello che chiedo è che tu tinga di speranza tutti quanti. Adesso i saluti li fate voi. Noi ci baciamo dopo. Giuliano, Lele, Negramaro, Alberto, salutate voi a conclusione di questa puntata che vuole partire di bilancio. 30 secondi. Il mio bilancio, grazie di questa psicanalisi gratuita di questa mattina alle 10 del mattino, ci è servita tanto. Sì, è servita tantissimo, una mattina terapeutica direi. Sì. Grazie, allora a domani.